Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Allora, se ci pensiamo, 60.000, credo, lordi, sono veramente pochi per un posto così, con una responsabilità imponente. Sono d'accordo. Non sono d'accordo sul fatto che sia più che raddoppiato. Cioè, a livello simbolico è uno schiaffo veramente a tutto ciò che c'è attorno. Tridico non è un manager, è un politico. È il segretario di Di Maio e l'attività di dossieraggio che ha svolto anche sui parlamentari, e c'è qualcosa di veramente discutibile. Cioè, fatemi capire, dov'è lo scandalo? Il presidente dell'INPS guadagna meno del difensore centrale del Crotone, con tutto il rispetto per il Crotone, sia chiaro, e noi ci scandalizziamo. No, ma infatti il punto è esattamente quello. Poi sulla figura di Tridico in sé possiamo discutere all'infinito, e molto se ne discute in queste ore, ovviamente. Ossia su Tridico, su Pasquale Tridico, e non su quanto guadagna il presidente dell'INPS. Però che debba avere uno stipendio piuttosto elevato una persona di quelle responsabilità, mi pare che non ci siano dubbi. All'ascoltatrice che dice forse non era opportuno in questo momento, fa eco un pezzo sulla stampa di Flavia Perina, sul quale arriveremo tra poco. Sono le 7:20 minuti, è lunedì 28 settembre, questa è la seconda parte di 24 mattino. È quella dedicata alla rassegna stampa, e al microfono, come sempre, c'è Simone Spezia. Vi aspetto al 349-238-6666, i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, gli sms, i messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Giornali in ordine sparso oggi in termini di aperture, perché per esempio La Repubblica si dedica alle questioni del Vaticano dopo il licenziamento, possiamo chiamarlo così, del cardinale Becciu. Vaticano svolta nelle finanze, adesso il Papa cambia tutto, è il titolo. Il Quotidiano Nazionale si concentra proprio su quota 100. Addio quota 100, scatta il maxi esodo. La Verità. La banda degli incapaci. Tridico fa la vittima, non ho deciso io l'aumento dello stipendio, ma dimentica che le vere vittime della sua inefficienza sono gli italiani. La Stampa apre col pressing di Banca Italia sul MES e con il piano verde da 75 miliardi. Il Messaggero sul fatto che non basteranno i vaccini per l'influenza, ci sono le farmacie in allarme, l'abbiamo già raccontato, ci torneremo in settimana. Corriere della Sera ci racconta che c'è la scelta del Presidente del Consiglio Conte di cambiare il reddito di cittadinanza. App e controlli, no a chi rifiuta il lavoro. E un po' di questo si occupa anche il Sole 24 Ore del lunedì. Il reddito di cittadinanza scade per metà delle famiglie, ci fa sapere il Sole 24 Ore. Da ora a fine anno ci sono 635.000 assegni al capolinea, un mese di stop, poi l'eventuale bis, ma è l'occasione, come racconta Alberto Rioli in un suo commento, per fare il tagliando, ci arriveremo tra poco. Al centrodestra serve un leader pacificatore, è il titolo del giornale, tra virgolette, perché a parlare è Alessandra Ghisleri, gli italiani sono stufi dei leader aggressivi. Libero, ecco i grillini arricchiti, sfruttano l'anticasta per guadagnare. E si parla dei ministri. Il Fatto Quotidiano, mega stipendi a tutti i boiardi, ma attaccano il meno pagato, che sarebbe proprio Tridico. E iniziamo come sempre da qualcosa di diverso. Ora, io devo quasi chiedere scusa a voi ascoltatori, perché il tema che voglio affrontare adesso con questo primo questa prima parte, in questa prima parte della rassegna stampa. Il pezzo con il quale apriremo è un pezzo che può suscitare discussioni di questo tipo. Non è un argomento importante. Oppure si può dire chi se ne frega dei detenuti. E però, il modo nel quale gestiamo le nostre carceri e quello che succede all'interno delle carceri è una misura del nostro grado di civiltà. Del resto ci scandalizziamo, no? Quando i trattamenti in carcere in altri paesi sono allucinanti, paesi che non rispettano i diritti umani, e poi ci ritroviamo come siamo. E dunque, fatemi aprire anche qua con qualcosa di diverso, non con un giornale stampato, ma con l'Huffington Post, e con un pezzo che mi ha colpito molto di Alessandro Barbano. Lo trovate appunto sull'Huffington Post e si intitola Il carcere rimosso. E parte da una storia, è la storia di un detenuto che riceve la sua compagna, detenuto per reati contro il patrimonio, riceve la sua compagna nel carcere di Cremona. Il protagonista, un quarantenne italiano, sconta un residuo di pena per reati contro il patrimonio. In un parlatorio disadorno incontra la compagna sotto gli occhi delle telecamere che spiano quello spicchio di intimità. Nella stanza a fianco c'è il figlio della coppia, i due si abbracciano, poi lei, cedendo a una richiesta dell'uomo, abbozza un improbabile schermo con la borsa e, nascondendosi dietro questa scena, dietro questa si china su di lui. Come chiamereste questa scena? Sesso, amore, disperazione, disgusto, rabbia, pietà? Per la legge italiana si chiama ancora atti osceni in luogo pubblico. La prova la fornisce un occhio elettronico ignoto ai due amanti che li sorprende dall'alto. Non resta loro che patteggiare una pena di 6 mesi. Ma stavolta nessuno piange, perché forse nessuno sa che in Francia, Olanda, Svizzera, Finlandia, Norvegia, Austria, Germania, Svezia, Spagna, ma anche in Russia, Croazia e Albania i detenuti sono autorizzati a incontrare per ore, talvolta per intere giornate, la famiglia in mini appartamenti senza alcun controllo. Nessuno sa che il diritto all'affettività in carcere era stato riconosciuto dalla riforma dell'ordinamento penitenziario, annunciata più volte dall'ex guardasigilli Andrea Orlando e mai portata a compimento. Nessuno sa che quella riforma il governo Conte 1, quello di Salvini e Di Maio, l'ha richiusa in un cassetto e ha riconfermato il vecchio regime. Che paese siamo? Siamo il paese dell'ergastolo ostativo, siamo il paese dove la direttrice del carcere di Reggio Calabria è tenuta per oltre un mese agli arresti con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per aver riconosciuto ai detenuti trattamenti umanitari giudicati inopportuni dal GIP. Nel nostro universo, scrive Barbano, nel nostro universo civile, il carcere è il luogo dove simbolicamente confiniamo tutto il male del mondo, proprio per non vederlo più. Perciò ci indigniamo se un magistrato di sorveglianza concede a un detenuto devastato dal cancro il diritto di morire a casa. Perciò ancora l'intercalare "chiudeteli dentro e gettate la chiave" ricorre come uno stereotipo nel lessico di molti politici e di altrettanti cittadini comuni. Figuratevi se in questo universo morale c'è spazio per la sessualità nei luoghi di pena. È la terribile ambivalenza del vedere e non vedere il detenuto indagato nell'intimità, negli affetti, negli umori e perfino nei bisogni fisiologici, e allo stesso tempo invisibile alla comunità dei cittadini liberi. Oh, so che questo susciterà un po' di indignazione. Ah, ma di cosa vi occupate? Ma di cosa ci si occupa? Non è una questione importante. Eppure, a mio personalissimo giudizio, è un pezzo della misura della nostra civiltà. Così come un pezzo della misura della nostra civiltà è quello che avviene nelle case nei confronti delle donne. Pagina 10 della Stampa. Ci racconta Nadia Ferrigo che ci sono dei nuovi dati dell'Istat sulla violenza nei confronti delle donne e soprattutto sulla difficoltà a denunciare. 5.000 le donne in pericolo, ma solo una su 7 ha denunciato, racconta l'Istat, che fa sapere che sulle chiamate di richiesta d'aiuto fatte durante i mesi di lockdown si è avuto un incremento del 73% rispetto al 2019. Vi ricordate, ne abbiamo parlato nella stagione scorsa di 24 Mattino spesso, perché spesso si è raccontato che c'era una maggiore, da una parte una maggiore difficoltà a denunciare, dall'altra parte perché le donne sottoposte a violenza erano di fatto, sono rimaste chiuse in casa per mesi con i loro aguzzini. e dall'altra parte una maggiore necessità, proprio perché questa vicinanza e questa pressione si era fatta più stretta. Su 7 donne consapevoli di trovarsi in pericolo, solo una decide di denunciare e allontanarsi. Perché? A cercare una risposta è l'Istat, che ha analizzato le chiamate ricevute dal numero antiviolenza 1522 durante i mesi di lockdown. Nell'omicidio-suicidio di Venaria a Torino, a rivolgersi alle forze dell'ordine erano stati i genitori della vittima, non per violenze fisiche ma psicologiche sulla figlia. Nei mesi di lockdown le chiamate al 1522 sono state 5.031, in aumento del 73% rispetto allo stesso periodo del 2019. Questo è stato anche in forza, racconta il pezzo, di un aumento della pubblicità, anche della pubblicità televisiva. E però succede che molte donne non denunciano. Di queste 5.000 telefonate solo 700 si sono trasformate in denunce, altre 164 hanno denunciato e poi ritirato la denuncia. I motivi quali sono? Sono legati alle conseguenze negative che si possono generare nel contesto familiare per il 20% delle donne, la paura di non riuscire a farcela da sole per il 14%, quella della reazione del violento nell'11% dei casi, e anche questo sarà un problema da affrontare. E a proposito di donne, di violenza sulle donne e in questo caso sulle bambine, a pagina 14 della Verità, con un richiamo in realtà in prima pagina, troviamo un pezzo di Laura Della Pasqua che prende le mosse da un reportage trasmesso da Al Jazeera sul Covid in Africa, il quale racconta come la pratica delle mutilazioni genitali femminili, soprattutto in giovane età, abbia ripreso velocità, corpo, con la quasi impossibilità di controllare per il lockdown prolungato, per queste bambine chiuse in casa con le loro famiglie senza possibilità di andare a scuola. Un reportage agghiacciante, scrive Laura Della Pasqua, ma il fenomeno non è limitato all'Africa. Tante di queste giovani donne con le loro famiglie arrivano in Europa, portandosi dietro una tradizione millenaria che continua a resistere a qualsiasi politica di integrazione nella cultura occidentale. In Italia le donne immigrate con questa mutilazione sono circa 90.000 e ci sono anche 5.000 bambine a rischio. È una tradizione radicata, difficile da estirpare, anche se la famiglia vive in una realtà culturale diverse, le leggi vietano e puniscono gli interventi. L'indagine dell'Università Milano Bicocca, finanziata dal Dipartimento delle Pari Opportunità, e ne emergeva esattamente questo. C'è anche un'intervista ad Aldo Morrone, direttore scientifico dell'Istituto San Gallicano di Roma, massima autorità sulle mutilazioni genitali femminili, riconosciuta a livello internazionale, il quale dice: sono stati scoperti alcuni casi arrivati al magistrato, ma noi non sappiamo se questi interventi vengano eseguiti o no in Italia. Veniamo a sapere qualcosa solo se ci sono effetti collaterali come emorragie o rischi gravi per la bambina, e questa viene portata al pronto soccorso. Così Laura Della Pasqua, appunto, su La Verità, a pagina 14. Una pausa. Intimissimi uomo, boxer a 7,90 euro, nei negozi e online. Vi presenta "24 mattino". La questione Tridico. Ne trovate praticamente ovunque sui giornali, a partire dalla Repubblica, pagina 8, dal Conte 1 al Conte 2, tutti i pasticci sull'aumento di stipendio a Tridico. Evidentemente in questo momento il presidente dell'INPS è nel mirino. Ci fa sapere Giovanna Vitale che le riunioni propedeutiche alla definizione dei compensi del CDA di INPS e INAIL si sono svolte sotto la regia di Palazzo Chigi. E quindi la domanda è: Conte poteva non sapere? Se ne sono occupati dei funzionari, probabilmente sì, in realtà, però così, questo è il dubbio che resta sospeso. C'è anche un'intervista all'ex sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, leghista: non sapevo dell'aumento, se ne occupò l'ufficio di Di Maio. E ancora lo stipendio di Tridico, le accuse tra i partiti e Conte che non lo difende, racconta La Stampa, la quale affianca questo servizio quello di un commento di Flavia Perina, la quale Flavia Perina dice questo, non è che se la prenda con lo stipendio e anzi nelle more del pezzo dice anche che tutto sommato per appunto un presidente dell'INPS la cifra è anche adeguata. Però il punto è questo, il punto è la politica che perde contatto con il paese. I partiti di governo prendono le distanze all'unisono dagli aumenti concessi ad agosto al presidente dell'INPS Pasquale Tridico e all'intero CDA dell'istituto e tuttavia non riescono a mettere a fuoco con esattezza il problema che li riguarda. La disconnessione, mai evidente come in questo caso, tra le scelte del palazzo e la condizione anche emotiva del paese. È una disconnessione politica nel senso più profondo del termine, perché l'arte di gestire la polis è innanzitutto quella di capirne e interpretare problemi e sentimenti. Come diavolo è potuto venire in mente al Ministero del Lavoro, peraltro in concerto col Ministero dell'Economia, di raddoppiare i compensi ai vertici della Previdenza nel pieno della tempesta Covid il 6 agosto, appena usciti dal lockdown, con centinaia di migliaia di italiani potenzialmente disoccupati, decine di migliaia di lavoratori che non hanno ancora preso la cassa integrazione e l'economia in ginocchio? E come è possibile che nessuno tra i molti che hanno letto e validato quel decreto abbia pensato di sollevare l'obiezione che forse non era il momento? E questo è un altro punto della vicenda, insieme all'autodifesa di Pasquale Tridico, il quale non è che parli proprio col Corriere della Sera. Queste sono le solite storie che trovate sui giornali, quello che è una specie di retroscena ma non è un retroscena, un colloquio che non è un'intervista, in questo caso a firma di Enrico Marro, che parla appunto con Tridico sostanzialmente. Sto bene e sto andando a messa come fosse una domenica normale, mentre per Pasquale Tridico è forse la più difficile della sua vita, da quando, giovane professore di economia all'Università Roma 3, sconosciuto ai più, fu lanciato alla ribalta da Luigi Di Maio alla vigilia delle elezioni politiche del 2018 con l'inserimento nella squadra dei candidati al governo presentata dall'allora capo dei 5 Stelle. Quindi c'è l'approfondimento sulla vicenda, ancora una volta il tema di questi soldi sono stati, questo aumento dello stipendio è stato retroattivo oppure no? No, non sarà retroattivo, non è stato retroattivo e lo si chiarisce ancora una volta. Infine, come già vi dicevo prima, c'è il Fatto Quotidiano che va in difesa di Tridico tirando fuori gli stipendi degli altri, che forse in questo caso è il modo più efficace, no? E quindi Gabriella Di Michele, direttore generale dell'INPS, 240.000 euro, Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, 450.000 l'anno, i presidenti di Agicom e Antitrust, 240.000 euro l'anno ciascuno, e anche appunto singoli direttori di filiale dell'INPS che guadagnano più del presidente, per esempio il direttore provinciale di Trento, Claudio Floriddia, 162.000 euro. Mario Izzo, che a Pisa si occupa di flussi contributivi e vigilanza documentale, 150.000 euro. Giuseppina Malaspina, a Reggio Calabria, segue prestazioni e servizi individuali, sempre per l'INPS, 150.000 euro. E questi sono gli stipendi anche dei dirigenti locali dell'INPS. Questo rischia, tutto questo rischia quasi di oscurare il grande tema di queste ore, che è un tema, anzi i grandi due temi di queste ore, che sono i due temi che riguardano strettamente l'INPS, e sono da una parte quota 100 e dall'altra il reddito di cittadinanza. Perché su quota 100 le parole del Presidente del Consiglio Conte ieri sono state molto chiare, cioè qua si cambia, finita la sperimentazione, perché come sappiamo quota 100 era un regime sperimentale della durata di 3 anni, beh, quota 100 sostanzialmente non sarà rinnovata. Tutto questo ha scatenato le proteste della Lega. Sui giornali trovate mille ricostruzioni e non, guardate, non ve ne do nemmeno una, perché sono troppo varie le ipotesi di riforma del sistema pensionistico che stanno circolando in questo momento e probabilmente lo stesso esecutivo non è arrivato a una. Di certo c'è l'ipotesi di definire più precisamente i lavori usuranti e consentire a chi ha fatto lavori usuranti di uscire prima dal mercato del lavoro. E poi c'è la revisione del reddito di cittadinanza. La scelta di Conte cambia il reddito di cittadinanza, è il titolo del Corriere della Sera. L'indicazione del Premier è di renderlo inaccessibile a chi rifiuta il posto di lavoro proposto. Quindi questa è l'idea. Il Sole 24 Ore oggi dedica la sua apertura esattamente a questo. Il reddito di cittadinanza scade per metà delle famiglie. Come sapete, il Sole 24 Ore è un numero chiuso il venerdì e poi il lunedì esce in edicola. È però quanto mai azzeccato nella giornata di oggi, perché ci dà l'indicazione nei pezzi all'interno che sono firmati. Il pezzo all'interno è firmato da Michela Finizio e Valentina Melis. Ci fa sapere appunto che metà dei beneficiari subirà uno stop di un mese previsto dalla legge e poi eventualmente ci sarà il bis. Fa notare Alberto Orioli che forse è proprio questo il momento di prendere il toro per le corna e dare una registrata a questo strumento. Perché? Perché i numeri amplificati dall'effetto Covid sono impietosi. Quasi 3 milioni di percettori complessivi e solo 220.000 proposte di lavoro procacciate dai navigator. Il primo turnaround di questa forma di salario di Stato potrebbe diventare l'occasione per una messa a punto dello strumento senza schemi ideologici, senza pregiudizi. Non ha funzionato il sistema dei controlli. Se l'ex presidente dell'INPS, Tito Boeri, può permettersi di uscire pubblicamente con una denuncia clamorosa, che il 50% degli assegni è percepito da chi non ne avrebbe bisogno e che anzi è evasore fiscale, mentre chi ne avrebbe effettivamente necessità non sempre finisce negli elenchi ufficiali dell'INPS. Nessuno nega che l'Italia, scrive Orioli, abbia bisogno di uno strumento per battere la povertà, che interessa quasi 5 milioni di famiglie. Per arrivare capillarmente al fenomeno, meglio sarebbe ripensare un sistema di raccordo con i servizi sociali dei comuni e al mondo delle onlus dedicate all'assistenza degli ultimi. Ciò che non funziona e rischia di essere dannoso nel medio periodo è l'idea che questo strumento possa svolgere anche il compito di incentivo alla ricerca di un lavoro. Ci vuole, dice Orioli, una messa a punto il traffico. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta Vorrei solo far rilevare che il presidente dell'INPS non ha direttamente compiti di gestione, perché quella famosa macchina complicata è gestita in realtà dalle direzioni, dalla direzione generale. Il presidente dell'INPS ha soprattutto compiti di rappresentanza. Buongiorno a tutti, non capisco questo scandalo dello stipendio di Tridico, quando in realtà il vero scandalo sono gli stipendi che prendono alcuni dirigenti comunali, che prendono molto molto di più soldi e sono anche totalmente incapaci. E comunque periodicamente torniamo a parlarne di stipendi dei dirigenti pubblici. Buongiorno Guglielmo Loi, presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, bentornato ai nostri microfoni, Loi. Buongiorno. Ma veramente il presidente dell'INPS ha compiti di sola rappresentanza, come dice l'ascoltatrice? No, in realtà compiti di rappresentanza legale innanzitutto, quindi risponde degli atti che il Consiglio di amministrazione prende, ha compiti di indicare cose complesse, i piani generali di investimento e disinvestimento, i piani, bilanci, insomma non è solo rappresentanza, non è la bandierina che va in giro, poi dipende sempre come si esercita, insomma, però no, non è solo l'immagine. Come la legge questa storia dei 60.000-150.000? Sono. Credo che se al di là delle cose un po' rituali che si dicono, una polemica montata su un rischio, quello degli arretrati, che pare che sia stato chiarito, insomma, sostanzialmente, siccome viene da quel mondo che in queste settimane si è scatenato contro, diciamo, la casta, il referendum e tutto, è mancata completamente la comunicazione. Cioè quando si prende una decisione, quella relativa al quantum deve prendere il presidente e il vicepresidente, peraltro non prende niente perché, come sapete, i pensionati non possono prendere nulla delle indennità, nel caso la vicepresidente, andava rivendicato e fatto, come dire, un comunicato non solo ufficiale, anche spiegare perché, proprio perché viene da quel mondo, bisogna evitare qualsiasi idea del sotterfugio, del nascosto. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono pubbliche, però devo dire con grande lentezza vengono, come dire, pubblicate, e al di là dell'atto formale sulla trasparenza, ripeto, su un argomento così delicato, come su altre cose si fa grande comunicazione, andava rivendicato fino in fondo, perché non, poi alla fine la cifra mi sembra sostanzialmente in linea e anche proporzionata alla funzione del quindi l'avrebbero dovuto comunicare pubblicamente, invece facendolo passare così all'inizio di agosto e poi facendolo uscire sui giornali, lei dice si è data l'idea di qualcosa di fatto, sì, un ma po' perché, di... ripeto, sappiamo di chi è espressione il professor Tridico, di un quadro, sì, politico ben determinato, che ha fatto della trasparenza, della moralizzazione, eccetera, eccetera. La bandiera, in Italia non c'è più di nulla, come dire, di gustoso nel ribaltare questi mantra verso chi poi ha responsabilità. Senta, Loi, le la vorrei portare anche su quota 100. Ieri il presidente del Consiglio, nelle scorse ore, il presidente del Consiglio è stato molto chiaro, ha detto questo esperimento finirà, non proprio con queste parole, Conte non usa questo linguaggio così secco di solito, però l'ha detto molto nitidamente, l'esperimento di quota 100 finirà. È una cosa che giudicate positivamente, giudica positivamente? Allora, dipende sempre qual è il presupposto della positività e negatività. Ci sono due questioni. Uno, un sistema pensionistico rigido, e rigido pure su quota 100, cioè chi accede e chi non accede in maniera radicale, diciamo così, ed è rigido sull'accesso finale al pensionamento, quello per la vecchiaia, cioè 67 anni e rotti. Noi pensiamo che tenere insieme la sostenibilità del sistema e il riconoscimento, come è noto che i lavori non sono tutti uguali, sia possibile. Quota 100, come dire, è stato mirato su una categoria particolare, soprattutto, anche se non maggioranza, del pubblico impiego. Si tratta di allargare la possibilità per molte altre figure più fragili di accedere al pensionamento anticipato, e poi c'è il problema delle risorse, naturalmente. Cioè, se queste risorse di quota 100 vengono comunque recuperate per migliorare la flessibilità al pensionamento, oppure c'è un problema di cassa. Questo è un nodo delicato. Quello che vediamo dal bilancio dell'INPS è che intervenire sul pensionamento anticipato si può fare, ovviamente previa copertura dei soldi dello Stato, altrimenti, come dire, può andare in discussione la sostenibilità, premesso che naturalmente tutto parte dal dato generale, cioè quanta gente lavora in Italia, ma questo è altro discorso, anzi dovrebbe essere la premessa di tutto. Di tutto. Ascolti, Loi, l'ultima domanda che le voglio fare è, perché ci siamo tornati nei giorni scorsi, e qualcuno l'ha messo in relazione anche alla vicenda di Tridico, no? Perché il ragionamento è stato, sì, vabbè, insomma, non sono i 150.000, ma è la qualità dell'amministrazione dell'INPS da parte di Tridico, è la questione della cassa integrazione. Nelle scorse ore si è parlato di 500.000 persone che non l'avrebbero ancora ricevuta. Di certo, quello che sappiamo è che molte aziende ci raccontano di averla anticipata, anche ascoltatori che ci scrivono, di averla anticipata e di non aver ancora ricevuto nulla, ascoltatori che ci scrivono, guardate, io sto aspettando ancora maggio, alcuni addirittura aprile, c'è ancora un intoppo là. Sì, c'è ancora un intoppo, e anche qua torniamo un po' al discorso della trasparenza. Professor Tridico, l'INPS per mesi ha elaborato tabelle, preannunciato, come dire, anzi ha dato dati sul pagamento. Come vede, da diciamo dal periodo dello scivolone sul pagheremo tutti entro, non so se vi ricordate, dall'istituto non esce più niente. Noi come consiglio di vigilanza riusciamo a elaborare alcune tabelle. Che cosa dicono queste tabelle? Che il differenziale tra le domande presentate e quelle autorizzate è ancora alto. Certamente siamo coscienti che l'alto deriva anche da... Alto quanto, Loi? Beh, insomma, siamo intorno ai 200.000 domande, che naturalmente non vuol dire che sono tutte in ritardo da aprile-maggio. Ci sono alcune, essendo una cisterna che si riempie continuamente, un tubo che porta via l'acqua, il bacino, diciamo, è in parte fisiologico, cioè domande più recenti, e ce ne sono alcune invece domande più, tra virgolette, anziane. Quindi la stima va fatta su quanto tempo aspettano i lavoratori, tenendo conto che molti vengono anticipati, per fortuna, dalle aziende, anche se temo che la crisi di liquidità possa far diminuire la facoltà delle aziende di anticipare. Quindi, diciamo, ce n'è una parte alta che ritarda di un mese, alcune parti meno alte ma significative di un paio di mesi. Dopodiché arriva un altro decreto, altro giro, altra corsa. Oltretutto un decreto che renderà più complicata per certi aspetti la domanda delle aziende. Quello che temiamo è che con il decreto di agosto si accumulano domande con procedure più difficili, la questione del fatturato, la questione dell'opzione per la decontribuzione. Insomma, il legislatore ci mette del suo a non semplificare, e l'istituto forse non ha reagito abbastanza per chiedere al legislatore di fare procedure più semplici. Grazie Guglielmo Loi, Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, per essere stato con noi. GR24, ci ritroviamo subito dopo, l'appuntamento come sempre con Paolo Mieli, e poi parleremo un po' di politica oggi, a tra poco. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio, ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso! Su aruba.it